a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Bentrovati amici di Blu Radio Veneto per un nuovo appuntamento con A Regola d'Arte, grazie alla collaborazione di Blu Radio Veneto con l'Unione Provinciale Artigiani di Padova. E anche oggi trattiamo un argomento di assoluto interesse che riguarda molti piccoli imprenditori. Parliamo della possibilità di utilizzare dei soldi in alcuni bandi. Ne parliamo con il presidente della funzione aziendale innovazione e qualità dell'Unione Provinciale Artigiani Confartigianato di Padova, Antonio Morello, che è con noi al telefono. Benvenuto. Grazie. Ecco, c'è la possibilità per molti piccoli artigiani di partecipare ad alcuni bandi interessantissimi, e proprio per questo voi avete pensato, a titolo informativo, di fare una serata che si chiamerà Innovazione Digitale, leva per la crescita e la collaborazione tra imprese. È un appuntamento che si svolgerà presso la sede di Confartigianato Padova in via Masini 6 dalle ore 19 del prossimo 9 febbraio. Sì, questa è un'iniziativa assolutamente molto importante, alla quale io vorrei personalmente invitare tutti gli artigiani della provincia di Padova, tutti quelli che possono venire in quella serata, ripetiamo, 9 febbraio alle ore 19 presso la sede UPA della Confartigianato di Padova in via Masini. È molto importante la partecipazione di tutte le imprese. Perché è importante la partecipazione di tutte le imprese? Per un motivo molto semplice: ci sono fondi POR e FESR che verranno elargiti alle imprese che ne avranno il titolo in forma, diciamo, gratuita. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'impresa potrà usufruire di questi fondi a fondo perduto, una parte di questi fondi potranno essere utilizzati a fondo perduto, una parte restituiti. Ecco, questi fondi POR e FESR sono divisi in diverse asse di interesse, che sono per esempio ipotesi sostegno a progetti di ricerca, oppure sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, macchinari, sostegno per le attività di collaborazione di ricerca e sviluppo, sostegno alla creazione di consolidamento di start-up, magari all'interno di un'impresa, una persona, un imprenditore nostro, Veneto, sappiamo quanto siamo agili con la mente, abbiamo in mente di creare una nuova attività, ci sono 19 milioni di euro a disposizione per le imprese che ne avranno necessità, ma ci sono altre misure come per esempio riposizionamento competitivo, la capacità di adattamento al mercato, magari fare internazionalizzazione, sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, per esempio chi fa turismo, ci sono 40 milioni in questo ambito qua, intervento di supporto alla nascita di nuove imprese, per esempio i giovani, figli magari di imprenditori che adesso vogliono fare una loro impresa nuova, hanno altri 24 milioni di euro. Quindi ci sono tutta una serie di attività che possono essere portate avanti da parte delle imprese attraverso questi fondi. Quello che secondo me è molto importante, sì, lo dico a tutti gli artigiani, lo dico da artigiano, noi ci occupiamo di assistenza, facciamo servizi per gli ospedali, noi abbiamo la possibilità in questo momento di avere dei fondi che sono veramente l'unico sostegno in questo momento che possiamo avere. Perché? Perché altri sostegni non li abbiamo da nessun'altra parte. Quindi secondo me giovedì 9 febbraio, cari artigiani, venite nei nostri uffici, venite presso la nostra sede, venite a conoscere quali sono le opportunità per la vostra impresa, per poter crescere, per poter innovare. Sì, anche perché magari ci sono dei bandi, non ne siamo a conoscenza, sono dei bandi che potrebbero cadere, come dire, a fagiolo proprio per l'attività di questo artigiano piuttosto che di quell'altro, quindi potrebbe essere una serata con delle sorprese per chi verrà ad ascoltare. Ma volevo anche dire ai nostri ascoltatori artigiani qualcosa in più. Di recente siamo stati invitati ad una governance, cioè ad un criterio, diciamo, strutturato da parte della regione, con il quale andiamo a indirizzare i settori che sono di maggiore interesse per quanto riguarda le nostre imprese. Cioè, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati, abbiamo ragionato con la regione, abbiamo costruito dei percorsi che sono in sintonia con quelli che sono i modelli di sviluppo della nostra microimpresa. Per cui, veramente, giovedì prossimo giovedì 9 febbraio, avremo proprio la possibilità di sentire parlare anche di temi che rappresentano le nostre imprese. Cioè, voglio dire, abbiamo l'impresa metalmeccanica, abbiamo l'impresa che fa servizi, abbiamo l'impresa che si occupa di frigoriferia, cioè abbiamo l'impresa generica che si occupa di qualsiasi attività che noi, le nostre microimprese, sviluppano ogni giorno, e abbiamo la possibilità di avere dei temi che sono in sintonia con quello che è il nostro modello di sviluppo. Questa è una cosa molto importante. Ci fermiamo per una canzone e poi torniamo ancora insieme. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora ben trovati a Regola d'Arte, il nostro appuntamento vi sta raccontando questa bella possibilità di alcuni bandi por FESR con delle opportunità da non perdere per le imprese. Addirittura si parla dell'Unione Europea che ha messo a disposizione delle imprese oltre 600 milioni di euro, quindi tantissimi soldi in un progetto quinquennale. Ne stiamo parlando con Antonio Morello, presidente della funzione aziendale innovazione e qualità dell'Unione Provinciale Artigiani Confartigianato di Padova. Signor Morello, questa serata da non perdere, l'abbiamo detto, giovedì 9 febbraio alle 19 presso la sede di Confartigianato Padova in via Masini 6, è aperta a tutti ad ingresso libero ovviamente. Come si svolgerà la serata? Allora, la serata sarà una serata proprio di presentazione per quanto riguarda appunto queste leve di crescita, parliamo proprio di leve di crescita per collaborare tra imprese, e ci sarà a relazionare il nostro Paolo Giaccon dell'Università di Padova, consulente di Confartigianato Padova, una persona assolutamente straordinaria che tratterà il tema artigianato digitale, opportunità e contributi per le imprese, poi la presentazione del bando MISE, e Marco Comin della Confartigianato Imprese Veneto FRAV, che illustrerà proprio i fondi, perché questo Comin è un funzionario straordinario che proprio ha visto nascere il progetto con la regione e poi sta guidando tutta la parte che riguarda appunto i bandi. Questa cosa dei porri di Fesa è talmente viva, talmente, io ci credo talmente tanto, ci metto la mia faccia su questa cosa qua, perché per la prima volta, credetemi, c'è la possibilità veramente di avere delle misure che vanno in sintonia con quelle che sono le nostre microimprese. Per esempio, ci saranno delle facilitazioni per le aggregazioni di impresa, fino minimo 3 imprese che si mettono insieme per un progetto e che vogliono svilupparlo insieme. Ci sono delle agevolazioni per le reti innovative regionali, sono stabilite delle reti innovative regionali, ce ne sono già alcune che riguardano per esempio la riqualificazione del territorio, che riguardano per esempio i rifiuti. Ci sono i 17 distretti industriali che magari ci riconosciamo all'interno dei distretti industriali con le nostre attività. Quindi abbiamo veramente la possibilità di dire la nostra, o meglio, di prendere la parte che ci spetta, diciamo, per lo sviluppo della nostra impresa. Questo io mi sento di dirlo in maniera molto chiara, e quindi è un'opportunità secondo me che va presa. Tra l'altro i fondi sono parte a fondo perduto, per cui non vedo per quale motivo non possiamo utilizzare questi mezzi. Cioè, secondo me si tratta proprio di mettersi in gioco e venire ad ascoltare quello che ci stanno proponendo i nostri esperti. Certo, ovviamente poi l'UPA aiuta nel realizzare, insomma, la domanda del bando, perché poi penso ci sono tutta una serie di procedure che bisogna ovviamente seguire. Ecco, su questo punto io vorrei essere altrettanto chiaro. Noi di Confartigianato vogliamo anche essere molto attenti alle nostre imprese, perché il ritorno dell'investimento, il cosiddetto ROI, ritorno dell'investimento, proprio i soldi che noi andiamo a investire ritornino nelle nostre imprese attraverso i prodotti che andiamo a sviluppare, a creare, attraverso appunto questi soldi che ci vengono elargiti, sia il più ridotto possibile, cioè ci sia un tempo di recupero velocissimo. Voglio dire, se investiamo 10.000 euro, 20.000 euro per la produzione di una nuova idea, che questa idea ritorni in termini di vendite velocemente, e queste i nostri uffici, le nostre competenze ci possono aiutare le imprese proprio a capire se questo ritorno è immediato o ritardato. Questo è un aiuto importantissimo, perché spendere dei soldi e dopo non poter avere un ritorno è la cosa peggiore, diciamo, crea una frustrazione incredibile. Non so se lei immagina cosa vuol dire per un'impresa avere speso, dedicato del tempo, avere speso dei quattrini e poi non vedere il proprio risultato ritornare indietro. Assolutamente d'accordo, quindi l'importante è comunque partecipare a questo appuntamento giovedì 9 febbraio, ricordo ancora, presso la sede di Confartigianato Padova, in via Masini 6, dalle 19. Potete chiedere ulteriori informazioni anche presso proprio l'UPA Confartigianato Padova, chiedendo a Barbara Mizzon. Il telefono è lo 049 8206 128. A questo punto ringrazio Antonio Morello, presidente della funzione aziendale innovazione e qualità dell'UPA, per essere stato con noi. Grazie a tutti, artigiani, vi aspettiamo. E chiudiamo, come al solito, il nostro appuntamento di A Regola d'Arte con alcune segnalazioni dall'UPA. UPA, un mondo di servizi. C'è lo sportello notarile con notai esperti dell'associazione Merito Cultura Notarile, che sono a disposizione degli associati per una prima consulenza gratuita su appuntamento presso le sedi UPA. Successivamente ai soci è garantito un tariffario calmierato per eventuali approfondimenti. Tra i temi più richiesti dello sportello, il passaggio generazionale e la tutela del fondo patrimoniale. Esiste poi la convenzione con gli avvocati penalisti. Grazie ad una nuova convenzione con gli avvocati penalisti dello studio Caruso e Pavan, i nostri associati possono godere di consulenze personalizzate in ambito di diritto penale d'impresa, del lavoro, dell'ambiente fino a quello tributario. La convenzione prevede una prima consulenza gratuita e un tariffario agevolato per eventuali nuove consulenze. C'è poi lo sportello Finanza Agevolata. Grazie ad un accordo tra UPA e ABC SRL, tutte le imprese associate possono rivolgersi allo sportello Finanza Agevolata per conoscere le opportunità legate a contributi agevolati per le imprese e avere la giusta assistenza tecnica per ottenere tali contributi. Segnalo poi lo sportello Solidarietà Veneto per la previdenza complementare. Tramite gli uffici INAPA è stato attivato un punto di informazioni con consulenze personalizzate grazie alla presenza degli esperti di Solidarietà Veneto. Il fondo pensione che promuove la previdenza complementare, ormai sempre più necessaria per garantirsi un futuro economico dignitoso quando si smette di lavorare. E poi c'è CERTA, la salute soprattutto, è il piano di assistenza sanitaria integrativa promosso dall'Unione Provinciale Artigiani che può dare sussidi su spese mediche effettuate nel corso dell'anno, visite specialistiche, esami di laboratorio, esami diagnostici e ricoveri ospedalieri. E poi abbiamo le convenzioni con studi dentistici, poliambulatori medici, studi di fisioterapia e ottici. L'UPA ha siglato con i principali poliambulatori medici del territorio delle convenzioni che garantiscono all'associato un tariffario di favore per numerose prestazioni e un abbattimento dei tempi di attesa per prenotare visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio. Termino con la segnalazione dell'accordo con l'associazione Jonas per consulti psicologici. La collaborazione con l'associazione Jonas prevede un consulto di tipo psicologico, così strutturato, colloqui gratuiti di consulenza psicologica con un professionista membro di Jonas Veneto e successivamente un tariffario agevolato per nuove consulenze. Verranno inoltre promossi nel corso dell'anno seminari di aggiornamento su tematiche di interesse sociale lette in chiave psicoanalitica. Altre informazioni le trovate nel sito di UPA www.upa.padova.it. Per oggi è veramente tutto, grazie da Francesco Galante, alla settimana prossima. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.